Vangelo di Marco, capitolo undicesimo. E quando furono giunti vicino a Gerusalemme, a Betfage e Betania, presso al Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nella borgata che è dirimpetto a voi, e subito, appena entrati, troverete legato un pulletro d'asino sopra il quale non è montato ancora alcuno. Scioglietelo e menatemelo. E se qualcuno vi dice: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno e lo rimanderà subito qua». Ed essi andarono e trovarono un pulletro legato ad una porta fuori sulla strada e lo sciolsero. Ed alcuni di coloro che erano lì presenti dissero loro: «Che fate? Che sciogliete il pulledro?» Ed essi risposero come Gesù aveva detto, e quelli li lasciarono fare. Ed essi menarono il pulledro a Gesù e gettarono su quello i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. E molti stendevano i loro mantelli sulla via, ed altri delle fronde che avevano tagliate nei campi. E coloro che andavano avanti e coloro che venivano dietro gridavano: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene, il regno di Davide nostro padre, Osanna nei luoghi altissimi». E Gesù entrò in Gerusalemme nel Tempio, e avendo riguardato ogni cosa attorno, essendoci allora tarda, uscì per andare a Betania coi dodici. E il giorno seguente, quando furono usciti da Betania, egli ebbe fame, e veduto da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se per caso vi trovasse qualche cosa, ma venuto al fico non vi trovò nient'altro che foglie, perché non era la stagione dei fichi. E Gesù prese a dire al fico: «Niun mangi mai più in perpetuo frutto da te». E i suoi discepoli udirono. E vennero a Gerusalemme, e Gesù, entrato nel Tempio, prese a cacciare coloro che vendevano e che compravano nel Tempio, e rovesciò le tavole dei cambiamoneti e le sedie dei venditori di colombi, e non permetteva che coloro portassero oggetti attraverso il Tempio, ed insegnava dicendo loro: «Non è egli scritto: la mia casa sarà chiamata casa d'orazione per tutte le genti? Ma voi ne avete fatta una spelonca di ladroni». Ed i capi sacerdoti e gli scribi udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire, perché lo temevano, poiché tutta la moltitudine era rapita in ammirazione della sua dottrina. E quando fu sera, uscirono dalla città, e la mattina passando videro il fico seccato fin dalle radici. E Pietro, ricordatosi, gli disse: «Maestro, vedi, il fico che tu maledicesti è seccato». E Gesù rispondendo disse loro: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi dico: tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete ricevute e voi le otterrete. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni i vostri falli. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nel cielo vi perdonerà i vostri falli». Poi vennero di nuovo in Gerusalemme, e mentre egli passeggiava per il Tempio, i capi sacerdoti e gli scribi e gli anziani si accostarono a lui e gli dissero: «Con quale autorità fai tu queste cose? O chi ti ha data cotesta autorità di far queste cose?» E Gesù disse loro: «Io vi domanderò una cosa, rispondetemi, e vi dirò con quale autorità io faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni, era esso dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi!» Ed essi ragionavano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, egli dirà: Perché dunque non gli credeste? Diremo invece dagli uomini. Essi temevano il popolo perché tutti stimavano che Giovanni fosse veramente profeta. E risposero a Gesù, non lo sappiamo. E Gesù disse loro, e neppur io vi dico con quale autorità fo queste cose.